La sessualità nell'ambito del matrimonio. Leggiamo uno dei brani più conosciuti riguardo il matrimonio. Ora, riguardo alle cose di cui mi avete scritto, sarebbe bene per l'uomo non toccare donna. Ma a motivo della fornicazione, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie il dovere coniugale e ugualmente la moglie al marito. La moglie non ha potestà sul proprio corpo. Ma il marito. Nello stesso modo anche il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera. Poi di nuovo tornate a stare insieme, affinché Satana non vi tenti a causa della vostra mancanza di autocontrollo. Ora io dico questo per concessione, non per comandamento, perché vorrei che tutti gli uomini fossero come me. Ma ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro, i Corinzi 7:1-8. Prima di entrare in merito all'argomento, riguardo alla gestione della sessualità nel matrimonio, dobbiamo fare una premessa. Secondo la descrizione della Genesi, l'Eterno Dio restaurò la terra in 6 giorni. Tutti sappiamo che il sesto giorno l'Eterno creò l'uomo, cioè Adamo ed Eva, un maschio e una femmina. Due esseri quindi con caratteristiche sessuali diverse. Quello che forse ci sfugge è che già il terzo giorno l'Eterno Dio aveva creato degli organismi sessuati aventi caratteristiche maschili e femminili. Infatti creò la verdura e le piante che avevano in sé il proprio seme. Avevano quindi la capacità di riprodursi. Poi, il quinto giorno, l'Eterno creò animali che vivessero nell'atmosfera e nell'idrosfera, in grado di riprodursi. Infine, il sesto giorno creò animali per la litosfera e per ultimo l'Eterno Dio creò Adamo ed Eva. Questa constatazione ci porta a rilevare che la sessualità della razza umana non sia una caratteristica unica, ma che essa appartenga anche al regno animale e vegetale. Acquisire coscienza di questa realtà dovrebbe riportarci a vivere la sessualità nella sua originale naturalità, spogliandola dei due principali pregiudizi prospettatici dai mass media in maniera distorta, portandoci a considerarla misteriosa oppure a divinizzarla. La sessualità fa parte dunque di un principio divino, avendola, l'Eterno Dio, creata prima di formare l'uomo. Questo perché Dio è un essere sessuato. Infatti, quando l'Eterno creò un essere a sua immagine e somiglianza, non potendo crearne uno solo, perché un essere solo non poteva rassomigliarlo, formò due creature, con diverse caratteristiche sessuali, chiamandoli uomo. Genesi 1 e 27. Ciò dimostra che Dio non è un solo un maschio o solo una femmina, egli è entrambi. Dio ha caratteristiche maschili e femminili. Possiamo comprendere meglio le caratteristiche di Dio se consideriamo i nomi di Dio. Il nome, al tempo dell'Antico Testamento, aveva una grandissima importanza, perché vi era un rapporto diretto tra il nome e la persona. Il nome rivelava l'essenza stessa della persona. Il nome è la persona. Per questo Mosè, pur sapendo di trovarsi alla presenza di Dio, gli chiede rivelazione del suo nome, cioè le caratteristiche peculiari della sua persona. Così, mentre il nome Elohim ci parla della sua pluralità, il nome Yahweh ci parla della sua eterna esistenza, il nome Yahweh Shalom ci parla della sua pace, il nome El Shaddai ha il significato di petto, di seno e nella Bibbia, ed esso è quasi sempre usato per indicare le mammelle femminili, Giobbe 3 e 12. Perciò la parola Shaddai significa che ha del petto, cioè colui che nutre, che infonde sicurezza, quiete, soddisfazione, colui che elargisce benedizioni, il supremo donatore, colui che racchiude in sé gli attributi di un padre e di una madre. Solo Dio può avere le caratteristiche intrinseche in un uomo e una donna, perché l'uomo e la donna sono fatti all'immagine di Dio. Egli è colui che genera come un uomo, ma è anche colui che nutre come una donna. Dio è colui che corregge come un padre, ma anche colui che consola, come una madre. Per questo motivo possiamo affermare che, in cielo, ognuno manterrà la propria sessualità. Ciò non significa che ci si sposerà o che si userà la nostra sessualità, ma che ognuno sarà pienamente maschio o femmina secondo quello che era sulla terra. Se così non fosse, allora in cielo non avremmo più un essere creato ad immagine di Dio, perché per rappresentare le caratteristiche di Dio occorrono un maschio e una femmina. Ogni essere vivente, dunque, ha una caratteristica sessuale, sia nel campo vegetale, animale che umano. Forse è per questo che l'umanità ha demonizzato o divinizzato il sesso. Cercheremo quindi di parlare del sesso, come lo fa Dio, in modo equilibrato. Innanzitutto dobbiamo constatare che il sesso crea dei problemi, nonostante sia un dono di Dio. Possedendo una natura corrotta, noi uomini abbiamo alterato anche questo dono. Vi sono stupri, violenze, imposizioni, tradimenti, immoralità, licenze, oscenità. Il sesso si è trasformato in un nemico, un leone in agguato, in un inferno. Purtroppo, questa realtà si è infiltrata anche nel matrimonio dei cristiani, quindi il discorso ci tocca da vicino. Il fidanzamento. Prima di entrare in merito al tema proposto, vorrei fare un breve accenno riguardo al fidanzamento. I giovani di oggi vivono la sessualità in modo traumatico e drammatico. Benché la psicologia abbia liberato i giovani da certi tabù, essa ha creato più problemi di quanti ne abbia risolti. I giovani d'oggi, pur godendo una libertà quasi illimitata nel sesso, non sono più felici dei giovani della generazione precedente. La domande che si pongono i credenti nella loro adolescenza sono: cosa è lecito durante il fidanzamento nel campo sessuale? Perché la Bibbia non riferisce nulla al riguardo? La risposta è presto detta. Nella cultura ebraica, due fidanzati non avevano praticamente nessuna possibilità di incontrarsi da soli fino al giorno del matrimonio. Questo modo di vivere evitava tutti quei problemi che i giovani di oggi incontrano con la libertà che godono. Se due giovani fidanzati credenti accettassero di non trovarsi mai da soli, avrebbero automaticamente le risposte ai loro interrogativi. Anzi, non se le porrebbero neanche. Chi accetta la libertà del mondo diventa schiavo del peccato. Chi accetta il giogo di Cristo è libero dalla schiavitù del peccato e dalla cultura del mondo. Parliamo del rapporto di coppia. Il matrimonio è una istituzione sempre più in crisi. Perciò, perché un matrimonio abbia qualche possibilità di riuscita, si devono tenere presente le tre componenti della natura umana: corpo, anima, spirito. Se il matrimonio è fatto perché due corpi sono da scoprire, l'unione coniugale è fragile, poiché non ci vuole molto per conoscere un corpo. Se il matrimonio è basato sull'emotività, la vita coniugale è in serio pericolo, perché la nostra emotività è instabile. Se nel matrimonio si considera anche una componente spirituale, esso ha buone possibilità di durare, perché lo spirito non è limitato. Dopo più di 30 anni di vita cristiana e matrimoniale, dopo varie riflessioni, dopo aver letto molti libri in merito, sono arrivato alla conclusione che sia possibile vivere sereni la propria sessualità, osservando semplicemente quattro regole: la santità, il rispetto, la politica del cappello e l'astinenza sessuale. La santità. La domanda posta più frequentemente da una coppia nel campo sessuale è: che cosa è lecito nel rapporto di coppia? Le risposte sono varie e, spesso, dipendono dall'interlocutore. Se questi è un moralista, farà un lungo elenco di ciò che è lecito e di ciò che non lo è. Ma, di queste persone, non mi sono mai fidato, perché la morale cambia. Quando ero giovane, quasi ogni cosa era peccato. Oggi, quasi ogni cosa è lecita. Quindi mi sono messo a esaminare il Nuovo Testamento e, con stupore, ho trovato che Dio vieta una sola cosa nell'ambito sessuale. Nella mia conclusione, però, mi sono reso conto di aver dato per scontato quello che l'Eterno Dio aveva vietato precedentemente nell'Antico Testamento. Infatti, egli aveva disposto molti divieti, che sono tuttora in vigore. Eccone alcuni che troviamo nel capitolo 18 del Levitico: non avere rapporti sessuali con la madre. con la matrigna, con la nuora, con la zia, con la moglie di un altro, con una donna nel periodo mestruale, con un uomo, con una bestia, eccetera. Dato questo per scontato, nel Nuovo Testamento, l'enfasi è posta solo sul divieto d'avere rapporti sessuali contro natura, in modo specifico riguardo all'omosessualità, espressione sessuale praticata verso le persone dello stesso sesso. L'avere rapporti contro natura, però, può essere inteso anche nell'ambito del matrimonio, quando non si rispettano le parti fisiologiche del corpo femminile. Il rapporto anale, mi sembra di comprendere, rimane l'unico peccato che una coppia sposata possa compiere in campo sessuale. Ogni altra espressione, se accettata e non subita da un coniuge, può considerarsi lecita. Il rispetto. Ognuno di noi arriva al matrimonio con dei problemi sessuali. Ci è chi da giovane ha subito violenze, chi stupri o altre esperienze sessuali traumatizzanti che spesso impediscono un rapporto sessuale normale. Ma anche colui che non abbia subito traumi non arriva al matrimonio indenne. Ogni giovane idealizza la sessualità. Così, in un modo o nell'altro, due sposi iniziano un'attività sessuale condizionati dal passato. Questo spiega perché vi siano problemi nell'espressione sessuale all'interno della coppia. Come risolvere questo problema rispettando la personalità del coniuge? Pecca colui che obbliga il coniuge a compiere prestazioni che quest'ultimo non voglia eseguire. Possono essere anche richieste lecite, essendo però per un coniuge motivo di turbamento, l'altro non deve obbligare il partner come atto d'amore a prestazioni indesiderate. L'esperienza insegna, però, che con l'affetto, la tenerezza, il colloquio, certe barriere siano superate. Perché l'amore caccia via la paura. Infatti la libertà nel matrimonio è anzitutto liberazione dalla propria paura di fronte all'altro. Perciò, due figli di Dio dovrebbero trovare la purezza che Adamo ed Eva avevano, prima della disubbidienza. La politica del cappello. Anni fa lessi la testimonianza di una donna, riportata dalla rivista Selezione. Parlando con sua madre, ella si rese conto che i suoi genitori avevano adottato una moda che di recente era praticata in America, dormire in letti separati. Un po' curiosa, la figlia chiese come riuscissero a risolvere gli approcci sessuali, come potevano mettersi d'accordo. Semplice, rispose la madre. Ci sono delle sere in cui tuo padre mi tira il cappello e io glielo tiro indietro. A volte invece glielo porto. Stupendo quadro di come gestire la sessualità. L'uomo propone, la donna dispone. E sempre stato così e sempre sarà. Per sposarvi, lui ha dovuto chiedere se lo volevi sposare. Lei ha deciso di sposarti. Sono profondamente convinto che se l'uomo gestisse la sessualità in questo modo, il 90% dei problemi matrimoniali sarebbero risolti. Però attenzione, che l'uomo non faccia come successe ad un'altra coppia di sposi. Un giorno parlai con due coniugi che avevano problemi sessuali e accennai loro di questo metodo. Tornarono a casa tutti felici. Un mese dopo rividi la moglie e le chiesi come andasse la situazione. Abbiamo fatto pochi progressi, mi rispose. Vuoi dire che il metodo che ti ho proposto non funziona? Chiesi un po' scoraggiato. Non è il metodo. Solo che la sera stessa mio marito mi tirò un asciugamano e io gliel'ho tirato indietro. Lui me lo ha tirato di nuovo e io gliel'ho mandato indietro. Abbiamo fatto così per mezz'ora. L'astinenza sessuale. Una coppia cristiana che non prega è destinata a vegetare. L'Apostolo Paolo vede opportuno, all'interno di una coppia, che vi sia un periodo di astinenza sessuale per il digiuno e la preghiera. Da parte dell'Apostolo non vi è nessun ordine, ma una coppia che in armonia dedica del tempo all'astinenza sessuale compatibile con le proprie esigenze ne avrà un beneficio non indifferente. E sufficiente provare per credere. Da quanto ho letto e da quello che ho sentito, il letto matrimoniale è il campo di battaglia dove si svolgono le guerre più tremende. con una differenza: mentre le altre battaglie hanno un vincitore e un vinto, nel matrimonio tutti e due sono sconfitti. E sconfitto chi perde, ma anche chi vince, perché l'altra metà ha perso. E come dire che una mezza mela è marcia, e marcia la mela intera. Ma se gli sposi vivono un matrimonio di pari consentimento nelle decisioni, difficilmente avranno problemi irrisolvibili. Uno psichiatra e consulente matrimoniale individua 5 bisogni fondamentali per l'uomo e altrettanti per la donna. Bisogni della donna. 1. Affetto. Espressione di gentilezza, dolcezza, sensibilità da parte del marito. 2. Dialogo. Possibilità di poter parlare regolarmente con il proprio coniuge. 3. Onestà e apertura, da parte del marito che non le mente e non nasconde nulla. 4. Sicurezza economica. Anche se la donna lavora, deve sentire che lui si prende cura di lei. 5. Impegno per la famiglia, da parte del marito. Ecco quindi ciò che deve fare l'uomo. Egli deve rendersi conto che l'istinto sessuale è sempre troppo forte al punto da soffocare gli altri sentimenti di affetto e tenerezza. E come per un'orchestra, il sesso è paragonabile ai tromboni. Se suonano troppo forte, coprono il suono dei violini. La donna, quando sente solo i tromboni, non crede che esistano anche i violini, non può crederci perché lei è una donna. Un maschio si comporta da uomo quando riesce a far sentire alla propria moglie tutta l'orchestra composta di dialogo, di sicurezza, di impegno e di apertura. Anche il sale è buono, ma quando è troppo, ripugna. Anche l'acqua è buona, ma troppo annega. I bisogni dell'uomo. 1. Rispetto, ammirazione, apprezzamento da parte della moglie. 2. Compagnia della moglie. In caso di mancanza, la cercherà negli amici. 3. Una moglie attraente, che si renda tale per lui. 4. Sostegno domestico, che lo accudisca. 5. Appagamento sessuale. Ecco quello che deve fare la donna. Come avrete notato, per gli psicologi, il bisogno sessuale è solo per l'uomo. E, sbagliato, non cerca forse anche la donna l'incontro sessuale? Sì, ma in linea generale non lo cerca per appagamento sessuale, ma come un incontro di affetto col marito. Proprio per questo, per quanto posso aver compreso, troppe donne cristiane commettono l'errore di sottovalutare la sessualità maschile. Perciò, vorrei ricordare alle mogli cristiane due cose. 1. Quando vi siete sposate avete scelto prima di tutto un uomo e non un cristiano. Se volevate stare solo con dei cristiani bastava che frequentaste la chiesa da nubili. 2. I mariti cristiani, prima di essere cristiani, sono uomini, cioè sono uomini cristiani e non cristiani uomini. Come tali hanno tutte le caratteristiche degli altri uomini. Anche loro sono attratti dal fascino femminile. Anche loro sono tentati nel vedere figure provocanti. Anche loro. E forse di più. Ho conosciuto una donna che si vantava di avere un fidanzato molto rispettoso negli approcci amorosi, ma era tanto rispettoso che quando è morta vedova era ancora vergine. Inutile nasconderlo, se non ne hanno il dono, gli uomini non possono vivere senza rapporti sessuali. Matteo 19:11. Purtroppo non tutte le spose cristiane lo hanno compreso, e alcune sono contente solo quando il loro marito le lascia stare o non hanno delle storie. Questo spiega anche il perché troviamo mariti credenti che tradiscono le loro mogli. Viviamo in un'epoca in cui la donna in campo sessuale fa da padrona, mentre nell'Antico Testamento l'uomo faceva da padrone perché aveva più mogli e se una si rifiutava i doveri matrimoniali poteva essere ripudiata. Oggi, non essendovi la bigamia o il divorzio, se non in caso di fornicazione, come alcuni credenti pensano, la donna ha la situazione in pugno. Essa sa che non può essere ripudiata e quindi spesso può venire meno ai suoi doveri o almeno fa pesare la sua disponibilità. Va ricordato che la donna non ha autorità sul proprio corpo, ma il marito. Questa verità non deve essere impugnata dall'uomo per essere prepotente nell'espressione sessuale, ma deve essere ricevuta dalla donna per non venire meno ai suoi doveri. Come recita il proverbio, Il povero, cioè il bisognoso, parla supplicando. Il ricco, cioè colui che non ha bisogno, parla con durezza. Chi è in grado di capire ciò? Rifiutare la propria sessualità, come alcuni fanno, è quindi arrecare un'offesa a Dio. Ogni credente è chiamato a vivere la propria sessualità nella sua pienezza, per glorificare colui che l'ha donata. Ogni sposa che rifiuti il suo ruolo offende prima Dio che il suo sposo. Ogni marito che abusa della sessualità offende prima Dio che la sua sposa. Solo accettando la propria sessualità si può veramente essere uno strumento nelle mani di Dio, perché non è possibile essere un vero uomo o una vera donna senza essere in armonia con se stessi e, quindi, con la tua sessualità. Qualcuno ha detto: oggi le coppie moderne, troppe volte, parlano, ma non condividono i loro pensieri. Sentono quello che l'altro dice, ma non si ascoltano. Si toccano, ma non si amano. Guardano, ma non vedono. Pregano, parlano di persone, di fatti, ma non di Dio, del loro amore e dei loro sentimenti. Conoscono gli amici più del loro coniuge. Lavorano sodo, ma non per migliorare la loro unione. Amano Dio, ma in modo personale e individuale. Stanno uno a fianco dell'altro, ma non camminano assieme. Questo è il dramma. Si può essere sposati e desiderare di non esserlo. Sei contento del tuo matrimonio? Sei contento del tuo partner? Sposare un uomo o una donna è come comprare qualcosa che hai ammirato a lungo in una vetrina. Potrà piacerti molto, ma una volta portato a casa, ti accorgi che non sempre si accorda con tutto quello che ci è già. È normale quindi che la tua risposta possa contenere un sì con riserve. È stato detto che la situazione ottimale di un matrimonio è quando ciascuno dei coniugi riesce a godere delle proprie caratteristiche e di quelle dell'altro. L'inclinazione femminile verso la tenerezza e l'interesse maschile per il sesso. Il matrimonio rimane uno dei banchi di prova più difficili, perciò terminare la propria esistenza con un matrimonio funzionante è una conquista non indifferente, perché mettersi insieme è un inizio. Lavorare insieme è un progresso, rimanere felicemente insieme è un successo. GIUGNO 2000 ELLRO